E siamo ritornati in diretta, 451 Frammenti Sonori riprende il suo percorso notturno. Ricordiamo, per coloro che si fossero messi in ascolto solo in questo momento, che 451 Frammenti Sonori stasera percorre una strada legata al tema lavoro non lavoro, ovviamente un tema provocatorio in questi tempi, dato che c'è questa vera e propria ideologia del lavoro, la rappresentazione della totale felicità attraverso il lavoro, attraverso la realizzazione personale tramite appunto l'attività lavorativa. Noi provocatoriamente giochiamo, abbiamo giocato già nella prima parte a livello sonico tra una rappresentazione sonora del lavoro in forma ovviamente alienata, meccanica, ripetitiva, che attraversa gran parte dei lavori a cui siamo costretti a soggiacere per campare, e ovviamente nella seconda parte, cioè quella che apriamo in questo momento, arriveremo piano piano a una dimensione più creativa, più aperta, più solare, più umana, che è rappresentata appunto dal non lavoro come ipotesi a cui dovremmo tendere in una società capitalistica invece che ci costringe a questa dimensione lavorativa che appunto viene costantemente riproposta come dimensione onnicomprensiva di realizzazione umana. Noi provocatoriamente abbiamo inserito dei brani musicali che rappresentano, che nella nostra ottica, nella nostra concezione, l'idea alienata, scura, pesante, ripetitiva e alienante del lavoro attraverso Matmos, Pansonic, Dam, Affler Trio e Noisemakers 5. Se adesso apriremo la seconda parte ancora con un progetto che si muove ancora in una dimensione scura e piuttosto inquietante, tipica e collegabile da parte nostra ovviamente all'idea e alla rappresentazione sonica del lavoro, ma in un'apertura che volge verso quello che andremo poi a rappresentare in maniera musicale ovviamente dell'idea del non lavoro, dunque una dimensione più giocosa, più gioiosa, dove appunto le caratteristiche umane riescono a esprimersi a pieno, dove il tempo è veramente liberato e cerca di far uscire tutta la dimensione creativa e anche solare e divertita e divertente di una possibile vita altra rispetto a quella in cui siamo costretti dai tempi di lavoro, dai tempi di produzione che determinano anche tutti i tempi di riproduzione individuale, culturale, affettiva, e che potrebbero essere sicuramente differenti in una dimensione nuova a cui noi vogliamo tendere come soggetti antagonisti rispetto a un sistema produttivo a cui appunto siamo costretti a mantenere dentro i nostri ritmi. E andiamo a trovare un autore italiano non molto conosciuto, ma tra i più interessanti, che infatti non a caso produce all'estero. Questo è un disco di Andrea Belfi insieme a Machine Fabric, un progetto importante olandese appunto realizzato in Olanda. Troviamo ovviamente Andrea Belfi, ma anche musicisti come Rutger Zuidelvert e Gerko Iddink, che lavora ovviamente soprattutto a livello di design per la cover dell'album. Ci andiamo a sentire il disco Pulses and Places, uscito per la Korn Plastics Brombon nel settembre del 2009, e ci andiamo appunto ad ascoltare una dimensione che sta a cavallo tra lavoro e non lavoro, anche se rimaniamo sempre nel tema lavorativo, e apriremo successivamente invece il discorso sicuramente più aperto con il progetto successivo, che aprirà la serie non lavoro a cui noi siamo sicuramente più affezionati, anche se purtroppo lo viviamo molto poco. Buon ascolto con Andrea Belfi e Machine Fabric. Thank you. Thank you. Thank you. E siamo ritornati in diretta, abbiamo fatto un mix da passaggio da lavoro e non lavoro attraverso la formazione costituita e già presentata di Andrea De Belfi e Machine Fabric da Pulses and Places 2009. Abbiamo attraversato invece i meandri sonori di Stars of Elid dall'ultimo album uscito ormai già 3 anni fa, Carte da Visit. Stiamo ancora aspettando il prossimo album di Stars of Elid, formazione americana che effettivamente anche nel corso delle proprie produzioni, nata negli anni 90, ha sempre lasciato passare quei 2-3 anni da un disco e l'altro, probabilmente sarà in dirittura d'arrivo e presto lo andremo a presentare. E in questo album che ancora sentiamo in sottofondo si sente il passaggio da dimensioni più meccaniche, più alienanti, più scure, a dimensioni più aperte, più creative, che diciamo annunciano la seconda parte, quella che andiamo adesso proprio effettivamente ad affrontare musicalmente, più ariosa, più aperta, più creativa, più giocosa, appunto a dimostrazione quasi di una sonorità e di una dimensione vitale che esplode appunto in una dimensione di non lavoro, come dimensione di liberazione umana e chiaramente anche sonora. E attraverso in primo luogo i primi che andiamo ad ascoltare in questa sorta di fuoriuscita dal tunnel del lavoro alienato ed alienante sono gli ARP, formazione nata negli anni zero, estremamente interessante, costituita fondamentalmente da un solo elemento, Alex Georgopoulos, autore greco che si rifà alle sculture dadaiste di Hans Arp, da lì nasce appunto il nome Arp, e soprattutto dalle dimensioni cosmiche aperte, viaggianti appunto da altri mondi spaziali delle musiche cosmiche degli anni 70, riproponendole ovviamente con dimensioni sonore, strutture anche concettuali più ovviamente connesse agli anni zero, ma c'è questo recupero anche per alcuni suoni che richiamano il suono analogico dell'elettronica anni 70 della Cosmice Music, riproposte ovviamente con una dimensione dialettica nei nostri giorni, nei nostri tempi. Ci andiamo ad ascoltare The Soft Wave, un album splendido che ARP ha fatto uscire proprio alla fine dello scorso anno, dunque recentissimo, l'ultimo lavoro, e andiamo ad ascoltare una traccia che aprirà appunto l'ambito del non lavoro, la dimensione liberata, gioiosa, ovviamente creativa, che tutti ci auspichiamo al di là e al di fuori anche dei cosiddetti tempi che ci diamo nei meandri rimanenti, nei rimasugli dei tempi che abbiamo fuori dal lavoro. È un'altra cosa, il non lavoro è una dimensione chiaramente di emancipazione da questa segregazione lavorativa che detta i tempi di tutto, è una dimensione appunto utopica ovviamente in questo momento, ma che non si sa mai, speriamo soprattutto e tendiamo a realizzarla in un futuro che forse non vedremo, ma che comunque noi vogliamo sognare e che vogliamo comunque rappresentare nella nostra dimensione espressiva. ARP dunque da The Soft Wave. Thank you. Thank you. Siamo ritornati in diretta con il brano che abbiamo appena ascoltato, Tom Recchio, uno splendido lavoro costruito oltretutto su un piano immaginifico, dimensioni paradossalmente anche assurde, svagate quasi appunto in una dimensione parallela, spaziale e temporale, liberatoria sicuramente. Grande Tom Recchio che abbiamo mixato con il lavoro degli ARP, Tom Recchio dall'album Sweetly Doing Nothing, uscito tra il 2007 e il 2008, autore che faceva parte anche del progetto collettivo, assolutamente aperto negli anni 70 alla Los Angeles Film Music Society, che è arrivato anche fino alla metà degli anni 80 come progetto aperto, collettivo di collaborazioni estemporanee, di performance audio-video e anche per certi versi situazioniste, in ambienti, situazioni anche improvvisate. E da Tom Recchio ci svolgiamo e ci spingiamo verso territori anche questi connessi agli Stati Uniti d'America, con un autore assolutamente assurdo che ha vagato tra Canada e Stati Uniti, Frank Pahl, amatissimo da me medesimo, spesso inserito in trasmissioni giocose, deliranti, a cui lui fa riferimento come musicista eclettico e assolutamente incollocabile dal punto di vista musicale, muovendosi in dimensioni appunto di giochi, di strumenti autocostruiti, dimensioni sognanti, aperte e creative e soprattutto giocose. Ci andiamo ad ascoltare dall'album uscito nel 1994, The Romantic Side of Schizofrenia, due piccole tracce che danno l'idea appunto del discorso del non lavoro, dell'apertura totale al tempo veramente liberato. Andiamoci dunque ad ascoltare e a, diciamo, a divertirci insieme e a giocare insieme a Frank Pahl, The Romantic Side of Schizofrenia. Thank you. E siamo rientrati in diretta per ormai chiudere il nostro percorso sonoro su lavoro e non lavoro, dimensioni soniche che hanno cercato di rappresentare questa dimensione di vita, appunto quella che conosciamo è quella del lavoro, del non lavoro no, nel senso del tempo liberato e della dimensione di liberazione reale, creativa, umana no, abbiamo del tempo in più causato dal meccanismo produttivo in parte, e abbiamo del tempo in più spesso purtroppo anche perché non riusciamo a trovare il reddito, dunque ci troviamo a brancolare alla ricerca del lavoro e tantissime altre persone in una dimensione di alienazione, cassa integrazione o situazioni similari, ma non è tempo liberato e non è non lavoro, ma è una dimensione differente, lo spazio intercorrente tra il momento in cui appunto si perde il lavoro e si cerca di ritrovare un altro lavoro per sopravvivere. Al di là di queste considerazioni, che forse possono anche sembrare un po' tediose, un po' ripetitive in questa fase finale della serata, della puntata di trasmissione e soprattutto della nottata vostra, se siete ancora svegli alle 2 di notte circa, appunto forse vorreste fare anche qualcos'altro piuttosto che ascoltare appunto digressioni su questi concetti, ma ormai siamo alla fine, per cui al massimo potete sopportare ancora qualche parola. E chiudiamo il nostro percorso con una formazione che rappresenta un po' anche l'idea del sogno, del viaggio, dell'allontanamento e della dimensione chiaramente anche espressivamente liberatoria. Si tratta di Birds of Canada, formazione di punta dell'etichetta Warp, che ha avuto il suo massimo splendore negli anni 90, nei primi anni zero, e andiamo a pescare uno degli ultimi lavori usciti per questa formazione, un EP, Trans Canada Highway, e ci andiamo ad ascoltare una traccia, la seconda traccia, che chiuderà appunto il percorso sonoro di stasera, con in sottofondo il delirio ripetitivo, le marcette deliranti quasi da pupazzi animati di Frank Pal. E chiudiamo la puntata di stasera. Chiaramente vi ricordo, per coloro che fossero interessati a riascoltare la trasmissione o andare a pescare la scaletta degli album e degli autori, potete andare sempre sul nostro blog, che è un no blog, 451frammentisonori.noblogs.org, per avere anche ulteriori informazioni, se avete voglia anche di comunicare con la trasmissione, col progetto radiofonico. Io ovviamente vi auguro la buonanotte e vi aspetto, non io personalmente, ma vi annuncio chiaramente la puntata della prossima domenica, che sarà condotto dal compagno di viaggio Max Macchia. Una buonanotte ancora, Elisio Scarpa, e ovviamente buon proseguimento nella vostra nottata, nell'ascolto di Radio Città del Capo e la sua programmazione notturna, ma forse meglio che andate a dormire. Buonanotte.